Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a tutti, benvenuti. Subito i temi del giorno. Resteremo insieme come sempre fino alle ore 12. Il nostro sommario. Allattamento al seno, i vantaggi per la mamma e i benefici per il bambino. Decima giornata mondiale della vista. Al centro, la donna. Candele, incenso e spray per una casa che profuma di buono. Oggi parliamo di allattamento al seno. Lo faremo con diversi ospiti che ci aiuteranno a capire quanto sia importante per la salute del bambino e anche della sua mamma. Cercheremo naturalmente di dare consigli utili, di toccare quelli che sono i timori e le difficoltà più frequenti. Allora vi presento subito i nostri ospiti. Saluto la professoressa Irene Cettin, primario del reparto di ginecologia dell'ospedale Sacco Università di Milano. Buongiorno professoressa, benvenuta. Buongiorno. In linea con noi da Trieste abbiamo il dottor Riccardo D'Avanzo, che è un neonatologo dell'Istituto per l'Infanzia di Trieste. Dottore, benvenuto. Buongiorno. Allora, dottore, inizierei subito da lei. Sono circa 220 milioni di anni che le mamme allattano, no? Non c'è niente di più naturale, verrebbe da dire. Ogni mamma potrebbe aggiungere di più bello, perché è un'esperienza unica, magnifica. Per questo Madre Natura ha provveduto a fornirci di tutto il necessario per far fronte a questo piacevole compito, che sappiamo qualcosa di più che un semplice atto di nutrizione. Allora, dottor D'Avanzo, se lei è d'accordo, partirei proprio dalla fisiologia dell'allattamento. Credo che, capiti i meccanismi che stanno alla base della produzione del latte, sarà forse più semplice individuare, spiegare e anche risolvere i problemi che possono in qualche modo alterarla o impedirla. Che ne dice? D'accordo. Va bene, allora partiamo. Ma succede che il meccanismo, l'ha detta lei, è ben collaudato. Sì. Quindi dovrebbe essere un meccanismo che garantisce la produzione di latte, dovrebbe essere la garanzia, diciamo, che tutte le donne siano in grado di allattare. E questo è anche vero, soltanto dobbiamo osservare come fattori di varia natura, spesso psicologici ma non solo, influenzano, diciamo, il controllo ormonale che è alla base della produzione di latte. Vi sono sostanzialmente due ormoni. Sì. Un ormone che stimola la produzione di latte e un ormone che facilita la fuoriuscita del latte dal seno una volta prodotto. Vogliamo chiamarli per nome questi ormoni? Certo, l'ormone che fa produrre latte è la prolattina, l'ormone che invece fa fuoriuscire il latte è l'ossitocina. Quindi questi due ormoni è bene tenerli distinti come funzione, perché in effetti ci sono delle situazioni in cui la donna produce latte, e anzi la maggior parte dei casi, però per qualche motivo il latte ha difficoltà a fuoriuscire. Il bambino, per ricevere il latte prodotto, sì, deve essere efficiente nel drenarlo dal seno materno. Certo, deve avere una suzione, no? Deve avere una suzione e deve soprattutto attaccarsi in maniera, diciamo, corretta, efficace, corretta, efficiente. Questo non deve ingenerare l'idea, diciamo, che è una cosa tanto complicata, perché è naturale, dovremmo aspettarsi che l'allattamento sia la norma, l'allattamento naturale, però può capitare che ci siano effettivamente degli impicci, degli ostacoli, delle interferenze, questo, di cui parleremo naturalmente nel corso della nostra trasmissione, per aiutare le mamme e anche per dare delle informazioni a chi sta per diventare mamma. Ma professoressa Cettin, è importante creare delle condizioni favorevoli all'allattamento sin dai primi istanti di vita del bambino, a partire dalla sala parto, ancora in sala parto, no? Negli ultimi anni si è capito che questo è proprio un momento molto delicato, determinante per la relazione tra mamma e bambino. È così, professoressa? Sì, è certamente così. Per fortuna, diciamo che le cose, insomma, sono un pochino cambiate, molto cambiate negli ultimi anni. C'era stato molti anni fa, storicamente, la sala parto era un posto dove entrava la mamma, non entrava neanche il papà, il bambino, insomma, non c'era questa attenzione. Adesso quello che sappiamo molto bene è che il parto deve essere naturalmente favorito che avvenga in un ambiente protetto, però deve essere ovviamente mantenuto il più possibile la fisiologia sia del travaglio che del parto, e questo è importante anche chiaramente per ridurre il rischio di dover poi intervenire con procedure ostetriche o col taglio cesareo. Comunque, certo, in ogni caso è importante che quando il bambino nasce poi ci sia subito un contatto con la mamma, proprio il bambino, chiaramente questo ovviamente se non ci sono dei motivi diversi per cui se il bambino ha una sofferenza o non sta bene magari può non essere possibile, però tutte le volte in cui è possibile, che sono naturalmente la maggior parte, il bambino dovrebbe essere attaccato al seno subito, non si vede perché questo non debba succedere. È molto importante sia per stimolare il latte, l'allattamento, chiaramente subito questa prima fase iniziale dà subito uno stimolo, come diceva prima il dottor D'Avanzo, al riflesso proprio della produzione di prolattina e di ossitocina, quindi tutto questo favorisce la produzione, l'arrivo poi della montata latte e così via, ma è anche importante poi in generale anche proprio perché si stabilisce un rapporto tra bambino e mamma, tra papà, mamma e bambino, si inizia proprio una relazione in quel momento che anche dal punto di vista psicologico è molto importante, questa possibilità di avere il bambino insieme alla mamma subito e poi anche nei giorni in cui la mamma sta in ospedale deve essere assolutamente favorito il cosiddetto rooming in, che vuol dire semplicemente che il bambino sta nella stessa stanza della mamma. Sta con la sua mamma, esatto, che è la persona con cui deve stare, naturalmente, esatto, anche col suo papà, però certo, è molto importante. Fate un lavoro meraviglioso, sia lei che il dottor D'Avanzo, infatti già come professore, la professoressa Cetin ci raccontava il momento, no, del parto, della sala parto, di questo bambino che viene così messo vicino alla sua mamma, vedete delle belle cose, no? Assolutamente, sì. E poi è proprio commovente. Io immagino che ancora adesso, vero? Quando assisto un parto mi commuovo sempre. Sì, è veramente una magia, è proprio la vita. Allora, restate con noi, continueremo a parlare di allattamento. Se state per diventare mamme, se avete dei dubbi, delle paure, se lo siete, se state allattando il vostro bambino, se siete anche delle nonne, volete dare una mano, no, alle vostre figlie, alle vostre nuore, insomma, noi continueremo a parlarne. Abbiamo naturalmente bisogno del vostro ascolto, della vostra attenzione. Una mela al giorno. L'avevamo anticipato martedì quando abbiamo dedicato un'intera puntata alle malattie oculari per sottolineare l'importanza della prevenzione e dei controlli, ma anche per sottolineare i successi delle terapie oggi a disposizione. E adesso ci siamo, possiamo annunciarla e festeggiarla. Oggi è 8 ottobre, la giornata mondiale della vista, voluta dall'OMS e promossa dalla IAPB, Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità, e dall'Unione Italiana Ciechi. E in linea con noi abbiamo l'avvocato Giuseppe Castronovo, presidente della sezione italiana della IAPB. Avvocato, bentornato, buongiorno. Buongiorno. E in linea con noi abbiamo il professor Tommaso Daniele, che è presidente dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti. Presidente, buongiorno e grazie. Buongiorno. Allora, sappiamo, ne avevamo già parlato martedì, ma torniamo a farlo, che la giornata mondiale della vista quest'anno è dedicata alla donna. Avvocato Castronovo, che cosa significa per lei che rappresenta la IAPB? Ma la donna, perché intanto nell'Occidente il numero delle donne è più alto rispetto a quello degli uomini. Ancora, le statistiche ci indicano che la vita media della donna è di 7-8 anni più di quella dell'uomo, quindi per l'allungamento della vita, per il numero maggiore di donne rispetto agli uomini, la prevenzione della cecità diventa un ulteriore impegno perché la donna, anche da anziana, non diventi cieca. Mentre nei paesi dell'Africa e dell'Asia e anche dell'America del Sud il fenomeno relativamente alla donna un po' cambia, perché per motivi culturali e religiosi le donne non si recano dai medici e quindi hanno questi disturbi visivi che per mancanza di cure arrivano alla cecità. Quindi, avvocato Castronovo, l'impegno dell'Agenzia Internazionale Prevenzione della Cecità è quello di garantire anche alle donne la stessa assistenza che viene data agli uomini, è così? La finalità essenziale della nostra organizzazione, proprio l'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità, mira ad evitare proprio la cecità quando più è possibile, e anche rivolta per la cecità evitabile, rivolta quest'anno in particolare alle donne. Così ci ha detto l'Organizzazione Mondiale della Sanità e la Direzione Internazionale dell'Agenzia per la Prevenzione della Cecità. Io vorrei passare la parola al Presidente Tommaso Daniele, poi parliamo delle iniziative, sono davvero tante, della IAPB e dell'Unione Italiana Ciechi, che così le diamo tutte insieme. Chiedevo al Presidente Tommaso Daniele che cosa significa per l'Unione Italiana Ciechi una giornata che è proprio dedicata, incentrata sulla donna. Ma significa continuare l'opera di sensibilizzazione che da anni portiamo avanti. L'avvocato ha parlato di statistiche. Le statistiche ci dicono che nei paesi in via di sviluppo i 2/3 delle persone che hanno perduto la vista sono donne. Ecco perché è stato posto l'accento sul tema delle donne quest'anno, perché ogni anno viene celebrata questa giornata della vista nell'intento di sensibilizzare l'opinione pubblica in tema di prevenzione e in tema di riabilitazione. Noi dell'Unione Italiana Ciechi siamo stati all'avanguardia nel promuovere queste attività, abbiamo creato insieme alla società di oftalmologia l'Agenzia Italiana per la Prevenzione della Cecità, siamo stati i primi a portare in Italia degli esperti per la riabilitazione, siamo stati i primi a creare dei centri di riabilitazione in Italia, opera che adesso è stata compiuta egregiamente dall'Agenzia, che ha costituito un polo nazionale per la riabilitazione mettendo in rete circa 100 centri di riabilitazione che esistono in Italia. Quindi un grande lavoro, un grandissimo lavoro. Ecco, mi preme sottolineare che però, perché è un tema che ritorna in occasione di questa giornata, che è vero che le donne sono più fragili, ma le donne contribuiscono in maniera fondamentale alla lotta contro la cecità. Avvocato Castronovo, parliamo di donne nel ruolo di professioniste, quindi oculisti, assistenti di oftalmologia, medici e infermiere, ma come anche madri e mogli. La donna è molto, oggi ha un ruolo importantissimo nella società, è importante nella medicina, importante nei servizi sociali e anche in questo settore, nel campo della prevenzione della cecità, le numerose oftalmologhe, le oculiste hanno dato tanta disponibilità per fare delle visite gratuite dalla giornata dell'8 di ottobre fino al 31 di ottobre. Ecco, e allora siamo proprio arrivate a una delle tante iniziative organizzate dall'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità. È possibile prenotare infatti una visita oculistica gratuita nel mese di ottobre chiamando un numero verde attivo dalle 9 alle 18 dal lunedì al venerdì. Il numero è 800 98 98 89, ma resta sempre valido l'invito a chiamare il numero verde della IAPB 800 06 8506, dove potete sempre trovare delle informazioni medico-oculistiche. Così, avvocato? Il nostro sito in internet è forse il primo al mondo dove si danno delle notizie sulla prevenzione e la riabilitazione visiva e dove abbiamo una consultazione di migliaia e migliaia di persone che attingono informazioni al nostro sito. Noi in questa giornata avremo in queste piazze le nostre unità mobili, ma avremo anche uno stand dove vi saranno delle persone che distribuiranno, dei giovani che distribuiranno questi opuscoli. Ancora circa 300 oculisti che hanno messo a disposizione la loro attività professionale per più di 2500 visite gratuite per il mese di ottobre. Attraverso il numero verde potranno conoscere dove andare e quando andare. Questo numero verde naturalmente potete ritrovarlo sul sito della IAPB, ma anche sul sito di Radio 24. E chiederei al Presidente Tommaso Daniele, c'è sempre bisogno comunque di investire, di fondi, di sostenere la ricerca e l'iniziativa. E l'Unione Italiana Ciechi ha in corso una campagna. Sì, abbiamo in corso una campagna di raccolta fondi per il tramite degli SMS, una campagna che si svolge sotto l'alto patronato del Capo dello Stato, il Patrocinio di Roma e il Segretariato sociale della RAI, quindi una campagna sostenuta a tutti i livelli, una campagna che ha per oggetto la realizzazione di un centro di alta specializzazione per i ciechi pluriminorati, cioè quelle persone che oltre ad avere il dramma della cecità aggiungono altre, soffrono di altre minorazioni molto gravi. Noi pensiamo che in ciascuno di loro c'è sempre una scintilla che, se opportunamente alimentata, può diventare una fiammella e qualche volta anche una grande fiamma. Quindi invitiamo coloro che vogliono collaborare a questa nostra iniziativa, che è di alto valore morale e sociale, a visitare il nostro sito e troveranno le indicazioni per inviare un messaggio a sostegno di quest'opera che può davvero cambiare la qualità di vita dei pluriminorati. Grazie, allora, buona giornata mondiale della vista. Sì, dottoressa, grazie. Pronto soccorso. Torniamo a parlare di allattamento al seno insieme ai nostri ospiti, il dottor Riccardo D'Avanzo, che è neonatologo dell'Istituto per l'Infanzia di Trieste, e la professoressa Irene Cettin, primario del reparto di ginecologia dell'ospedale Sacco Università di Milano. Le raccomandazioni dell'OMS consigliano, dottor D'Avanzo, di allattare il bambino esclusivamente al seno per almeno 6 mesi e di continuare integrando con altri tipi fino ai 2 anni, no? E più. È chiaro quindi che il latte materno assicuri al piccolo una serie di vantaggi. Dottor D'Avanzo, vogliamo ricordarli? I vantaggi sono molteplici e per buona parte comunemente noti, vantaggi in termini soprattutto di riduzione di infezioni, sì. Però di recente si è capito che l'allattamento ha un vantaggio al seno, sì. Quindi naturale, anche un vantaggio nel ridurre l'obesità, diciamo, dell'individuo che sarà, e anche a contrastare in termini generali, diciamo, i processi degenerativi dell'età futura. E quindi rappresenta un investimento a lungo termine che va al di là della copertura immediata di fronte alle infezioni. A dire che il beneficio continua anche quando il bambino smette di essere allattato al seno. Certo. E questo forse non è adeguatamente apprezzato. Va sottolineato come la raccomandazione dell'OMS, che correttamente ha detto è quella di continuare l'allattamento esclusivo per 6 mesi, non va intesa evidentemente come un ordine, come un diktat. No, infatti è una raccomandazione, no? È una raccomandazione alla popolazione. Se certo. Il bambino cresce bene, la mamma ha piacere di continuare l'esperienza, deve sapere che la esclusività, quindi un'alimentazione solo col suo latte, non può che essere di beneficio, di vantaggio, cioè svezzare il bambino quando il latte prodotto dalla mamma è sufficiente per quantità, non rappresenta, svezzare precocemente non rappresenta un vantaggio. Perché? Perché questo tutti i benefici sono in un rapporto con la esclusività e con la durata, almeno fino al 6° mese. Quindi non c'è un vantaggio di interrompere prima, se gradita, questa esperienza molto intima e più delle volte molto gratificante. Dopo, naturalmente, dal 6° mese in poi, si può, l'alimentazione con latte materno può continuare, e però dobbiamo... Si sa che è opportuno iniziare una tempestiva alimentazione complementare, cioè in pratica si tratta di iniziare a dare pappette, minestrine. Sì, cioè si inizia, no? Non so, ecco, si inizia con la mela grattugiata e via, no? Così. Sì, fino... una volta c'era uno scadenziario molto preciso. Adesso è un pochino più morbido. Matematico, che poteva dare delle ragionieristico, senza offendere naturalmente chi è ragioniere, ma dicevo un'impostazione molto precisa che poteva dare delle sicurezze, ma che spesso non corrispondeva alle esigenze del bambino e neanche alle esperienze della mamma. Quindi molte mamme si trovavano poi disorientate anche di fronte ai consigli che gli operatori sanitari davano, perché il bambino non sempre rispetta queste tabelle. Il bambino è un personaggio unico, no? Che va, certo, assecondato, vuole... conosciuto e interpretato. Certo. Ma il dottor D'Avanzo ha sottolineato i vantaggi per il bambino. Allattandolo al seno, la mamma fa un investimento per la sua salute, no? Per la salute del futuro del bambino. Ma professoressa Cettin, ci guadagna anche la mamma ad allattare, non solo per questa esperienza unica, che ha allattato al seno lo sa, no? Per questa relazione magnifica che si crea con il bambino, ma perché ci guadagna la mamma anche in termini di salute? Ma sì, direi che è stato dimostrato che le mamme che allattano, il fatto di aver allattato riduce sicuramente il rischio del tumore al seno, per esempio, sì. Che è ovviamente uno dei tumori più diffusi, e l'allattamento al seno è un fattore protettivo per le donne che hanno allattato. Poi c'è anche un altro vantaggio sicuramente che... vorrei un pochino ritornare, anche che ha già citato il dottor D'Avanzo, ma che sembra molto importante per il bambino, ma anche un pochino per la mamma. Il fatto di allattare fa sì che la mamma abbia un'attenzione nutrizionale aumentata. Sì. E perché chiaramente deve, cioè, come anche durante tutta la gravidanza, le donne in gravidanza e nell'allattamento sono più attente. Motivate, esatto, sono più attente alla loro nutrizione. Questo è molto importante chiaramente per la qualità del latte, e tra l'altro questa qualità si determina già con la nutrizione in gravidanza, e per la quale tra l'altro è importante anche assumere alimenti che chiaramente poi il ginecologo e poi anche il pediatra consiglieranno, anche soprattutto il pesce, certo, e i derivati del pesce, perché questi sono importanti e contengono gli omega 3. Però questo, anche se lo vediamo proprio dal punto di vista materno, è importante perché normalmente appunto a quel punto la donna è sensibile, mangerà meglio e quindi ricostituirà anche prima le sue riserve, che sempre comunque durante la gravidanza vengono un pochino utilizzate. Quindi la mamma, per prendersi cura del bambino, si prende cura anche di sé stessa, e sì, quindi in questo caso, no, fa bene a lei e fa bene al bambino. E torniamo dalle nostre mamme, dai loro lattantini. Professoressa Cettin, tante volte le mamme sono prese dai timori, no? C'è ad esempio la paura di non farcela, di non avere latte di qualità e di quantità sufficiente. Queste sono un po' delle interferenze, dei timori che disturbano, no? Che creano un po' di problemi. Sì, ma in effetti sono timori abbastanza, come dire, frequenti, che devono essere proprio così, un po', cioè deve essere aiutata la mamma in questa fase. La mamma ha bisogno di molto aiuto nel senso semplicemente di presenze intorno a sé positive. Le presenze devono essere chiaramente delle persone, finché in ospedale, delle persone come le ostetriche, le puericultrici, i medici, che devono essere chiaramente presenti e poter dare delle risposte. E poi quello che sempre più adesso avviene è che gli ospedali abbiano comunque la possibilità di dare dei centri, di avere dei telefoni verdi piuttosto che dei centri dove la mamma può venire anche senza appuntamento per avere risposte abbastanza immediate. A volte può succedere che ci siano delle ragadi, cioè delle piccole feritine legate proprio alla suzione del bambino, oppure che il latte faccia un po' fatica a uscire e quindi si crea una situazione di ingorgo, però sono tutte situazioni che si possono risolvere. Non è necessario sospendere l'allattamento, a meno proprio di gravi situazioni, di mastiti molto severe o così via, però normalmente, se la donna viene aiutata e consigliata bene, l'allattamento può proseguire tranquillamente. E spesso l'origine di molti problemi sembra essere figlia di una cattiva o insufficiente informazione. Molte donne arrivano anche impreparate, sprovviste delle indicazioni di base, anche se ultimamente si sta facendo molto lavoro, gli operatori sanitari sono molto più sensibili a disposizione delle mamme, ma tant'è che una volta arrivate a casa possono nascere i problemi. In linea con noi abbiamo Margherita Locatelli, buongiorno. Buongiorno a tutti. Ostetrica? Sì. E consulente ostetrica. Professionale di allattamento. In allattamento. Quindi lei vede tutte le mamme e insegna le mamme ad allattare i loro bambini? E le accompagniamo, come tutte le ostetriche del resto, in tutta la loro vita, quindi nella loro vita riproduttiva, come ostetriche le accompagniamo già in gravidanza, durante il parto, il puerperio e poi a casa, quando appunto si presentano poi con più facilità le difficoltà, i dubbi sull'allattamento. Quindi proprio questo nostro ruolo di accompagnamento della mamma nelle diverse fasi. Io approfitterei di lei per dare qualche consiglio. Ad esempio, il bambino va attaccato bene per far sì che possa, possa succhiare. Sì, esatto, come ha anticipato già il dottor D'Avanzo, perché si possa poi esplicare questo meccanismo ormonale e il bambino possa assumere un'adeguata quantità di latte, è importante che fin dai primi giorni, e la dottoressa Cettina ha sottolineato quanto sia importante anche effettuare il rooming, sì, proprio perché il fatto che la mamma e il bambino stiano insieme fin dai primi giorni permette il realizzarsi della fisiologia, quindi il bambino e la mamma insieme imparano la mamma a portare al seno il bambino e il bambino subito ad attaccarsi, sì, in modo adeguato, e le ostetriche, il personale aiuta la mamma a riconoscere proprio che questo attacco, posizione, suzione siano adeguati, quindi dà alla mamma gli strumenti perché da sola poi al momento della dimissione possa riconoscere quando un bambino è attaccato in modo adeguato e quindi che sia nelle condizioni tali da poter ricevere il quantitativo di latte adeguato. Ma lei riesce a spiegarcelo via radio? Allora sì, ci proverò perlomeno. Sì. Quindi è importante che la mamma sia in una posizione comoda per lei, che non è necessariamente quella seduta tradizionale che vediamo, anzi è importante che sperimenti diverse posizioni perché le mamme poi avranno bisogno di allattare anche durante la notte, quindi è corretto che imparino, è giusto per loro proprio alla luce del risparmio energetico, tra virgolette. Quindi ciascuna mamma trova la sua posizione. Esatto. Non deve essere necessariamente seduta. Assolutamente no, perché se poi pensiamo al numero di poppate che il bambino può chiedere di fare, chiedere alla mamma di mettersi seduta ogni volta richiede veramente una tale stanchezza, poiché poi uno giustifica o malattare veramente molto pesante. In realtà molte delle cose che lo appesantiscono le abbiamo create, le abbiamo indotte noi. Comunque, per tornare alle nostre posizioni, è importante che la mamma si metta in una posizione comoda, il bambino sia ben vicino a lei, ben sostenuto, sia sdraiato oppure fra le braccia, e che sia, una cosa molto importante, ben allineato. Per intenderci, non è molto facile spiegarlo per radio, ma che l'orecchietto del piccolo, la spalla e le anchette siano su tutte su una linea, in modo che bello, il bambino non sia ritorto, non abbia, e che quindi questa posizione scomoda, tra virgolette, non lo faccia staccare prima del tempo della poppata. E per quanto riguarda l'attacco, che è altra cosa molto importante, la bocca del bambino deve essere ben spalancata, avere inglobato una buona porzione di seno e non solo di capezzolo. Il mento del piccolino deve essere ben contro la mammella, le labbra, il labbro inferiore deve essere ben estroflesso. Allora si può fare, per esempio, quando un papà è vicino alla mamma, si può far notare, indicare questi segni. E alla mamma va proprio chiesto questa importante domanda che ci dice se il bambino in quel momento è anche attaccato bene. Se si sente dolore. Se si sente dolore. Esatto. Volevo interromperlo un attimo per chiedere al dottor D'Avanzo, come neonatologo, l'allattamento deve essere fatto a richiesta oppure ci sono delle... Lei usava prima le tabelle, no? Diceva che adesso si è molto più flessibili. Oppure ci sono dei casi in cui i bambini devono essere, mi passi il termine, invitati a tavola, a degli orari fissi? Tendenzialmente a richiesta, sì, perché bisogna individuare i segni di fame, sì, di appetito, diciamo, del bambino, che non necessariamente si identificano col pianto, che è un segno tardivo, però dall'altra parte dobbiamo valorizzare i segni precoci di appetito, quindi il bambino si sveglia, si muove, muove la bocca, cerca la fonte di nutrimento, si mette le manini in bocca. Sì. Questi sono dei segni. Sono segni che, ecco, che dicono, che ci fanno capire che il nostro bambino dice: mamma, è l'ora. Esatto, ecco. Esatto, senza aspettare il pianto. Senza aspettare il pianto. Sì, se un bambino, soprattutto all'inizio, mangia poche volte, sì, allora non si può semplicemente assecondarlo, bisogna un po' stimolarlo, bisogna creare, ecco, i momenti, le condizioni per stimolarlo un po', perché a volte ci sono dei bambini pigri, ad esempio ci sono anche dei bambini che non succhiano. Margherita Locatelli, magari sono lì che sembra che giochino con il capezzolo. Siamo tornati in questa puntata dedicata alle mamme, all'allattamento al seno, ai loro bambini che hanno grandi vantaggi da questo atto di nutrizione, che non è solamente meramente un atto di nutrizione, c'è qualche cosa di più, tanti vantaggi per la salute del bambino, tanti vantaggi per la salute della mamma, un investimento per la salute futura. Ci sono però delle piccole interferenze che possono disturbare, no, questo allattamento al seno. Ne stiamo parlando con i nostri ospiti. Vorrei chiedere alla professoressa Cettin, che so che deve tornare in sala parto, a proposito di parto, le donne che hanno un taglio che hanno avuto un parto con taglio cesareo possono allattare subito, oppure per loro, no, è richiesta un'attesa più lunga? Assolutamente possono allattare subito, direi che forse può essere un pochino complicato magari attaccare proprio il bambino immediatamente quando è nato, finché è in corso ancora l'intervento, proprio per un motivo semplicemente banale di chirurghi che operano e così via, però appena il cesareo è finito, e di solito dalla nascita del bambino al termine del cesareo passerà al massimo una mezz'oretta, il bambino può essere subito attaccato. Non c'è, con le tecniche attuali che vengono utilizzate, con l'anestesia che è normalmente ormai quasi sempre spinale, non c'è, sì, motivo per cui la mamma non attacchi subito il bambino, e anzi questo può essere fatto, e tra l'altro stimola non solo la produzione di latte, ma l'attaccamento del bambino al seno con la sua suzione fa produrre appunto l'ossitocina, e l'ossitocina fa anche contrarre l'utero, e questo è particolarmente utile perché riduce anche la perdita di sangue. Quindi perfetto, anche le mamme con parto cesareo possono allattare subito, i vantaggi ci sono. Io la lascio alle sue mamme e ai suoi bambini. Grazie. Grazie. Arrivederci. Buona giornata. Grazie, arrivederci. Invece io tornerei insieme alla nostra ostetrica. Abbiamo visto che, insomma, l'allattamento quando può essere richiesta, quando, diceva il dottor D'Avanzo, ci sono dei bambini che vanno un po' stimolati, ma Margherita Locatelli, quanto deve durare in media una poppata? Si inizia da un seno e poi si passa sempre all'altro, oppure il bambino può decidere, no? Magari è sazio dopo la prima poppata. Sì, come ha detto lei, si inizia sempre da un seno, di solito la mamma capisce perfettamente da sola di iniziare con quello che sente più peso, che le dà più fastidio, poi così come nessuno a noi dice hai 5 minuti per finire la pasta asciutta, dovrebbe essere anche il bambino rispettato nei suoi tempi, proprio perché sebbene piccolo ha le sue competenze e la sua individualità. Quindi una volta che il bambino è attaccato al seno in modo adeguato, con le caratteristiche che abbiamo elencato detto prima, può essere lasciato lui il suo tempo individuale, avendo appunto l'accortezza che sia lui da solo a lasciare il primo seno e poi gli si offra sempre il secondo, e appunto in base a questa individualità sua potrebbe continuare il pasto dall'altra parte, quindi prendendo il primo, il secondo e magari la frutta, oppure accontentarsi semplicemente da una mammella e chiedere la seconda più tardi. Quindi hanno proprio questa loro spiccata individualità come noi. Allora, io volevo chiedere invece al dottor D'Avanzo un po' la paura, il timore delle mamme, che genera anche un po' di stress, è che tutto proceda bene, no? Che il bambino sia nutrito correttamente, che il latte sia di buona qualità e soprattutto che il bambino mangi, no, la quantità di latte necessario. Infatti c'è un po' la corsa al peso, no? Si pesa prima, si allatta, si pesa dopo. Questo è un po' un percorso che a volte genera un po' di ansia, soprattutto al primo bambino, poi magari col secondo uno prende la mano. Dottor D'Avanzo, si usa ancora la pesata prima e dopo la poppata, oppure anche qui ci sono state delle correzioni di tiro? Si usa in situazioni molto rare, quindi potrei dire quasi non si usa più, sì. Nel senso che abbiamo imparato negli ultimi 20 anni a utilizzare altri criteri per dedurre quanto il bambino introduca, sì, nel suo stomacchino per permettergli poi di crescere, e appunto un criterio è quello della crescita, della curva di peso, che va valutata naturalmente. Il bambino cala all'inizio, dopo il parto questo calo di peso normale può sicuramente impaurire la mamma, sì, che in attesa della montata lattea, dell'arrivo copioso di latte maturo che sostituirà, diciamo, il colostro, cioè il latte dei primi giorni. Quindi si comprende che la mamma possa avere dei dubbi, però il bambino viene valutato, viene pesato, e questo varrà anche dopo, successivamente, una volta andata a casa. Ma c'è un altro criterio molto valido, sì, che non vale, diciamo, nei primissimi giorni, ma sicuramente dopo il quinto giorno di vita sì, che è quello della diuresi, cioè della valutazione di quanti pannolini il bambino bagna. Se il bambino mangia solo al seno, sì, e quindi non ha altre fonti di introduzione di liquidi, è evidente che la valutazione della diuresi in maniera indiretta rispecchia È un buon indicatore del fatto che il bambino si nutre bene. Si dice di solito che 5-6 pannolini, diciamo, di urina, sì, di pipì trasparente, vuol dire sono... che il nostro pupo mangia bene, si nutre bene. Esatto. Margherita Locatelli, vorrei, prima di salutarvi, che lei desse ancora un'indicazione flash alle nostre mamme in ascolto. Se dovessimo pensare a una successione cronologica, prepararsi in gravidanza, ma informandosi, cercare aiuto quando ne hanno bisogno, ma soprattutto fare il percorso insieme ad altre mamme. E allora ecco, questo che... quindi l'unione fa la forza, mamme, esatto, ecco, fa la forza, mamme, confrontatevi. Ringrazio il dottor D'Avanzo, che è stato con noi, ci ha accompagnato in questo viaggio. Grazie, dottore. Ringrazio per i preziosissimi consigli, Margherita Locatelli. E io ringrazio voi. Buona giornata a tutte e due. Le mamme e i piccini in ascolto, ovviamente. Profumo di casa, una volta, se vi ricordate, era quello della torta di mele della nonna. Oggi invece sa di arancia, violetta, magnolia, vaniglia, sandalo. Insomma, non c'è che l'imbarazzo della scelta. Ad ogni ambiente la sua profumazione. Merito di candele, incensi, diffusori elettrici o a pile, spray. Ma per usarli bene abbiamo chiesto un aiuto al professor Domenico Cavallo, professore associato di medicina del lavoro dell'Università dell'Insubria di Como. Professore, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Voi. Professore, con lei cercheremo di dare un po' le istruzioni per l'uso e consigli pratici su come orientarci nelle nostre scelte. Allora, partirei dalle candele, che sono così belle, fanno così atmosfera e sono anche profumate. Come sceglierle? Ma indubbiamente le candele sono un oggetto che è di largo consumo in questi ultimi anni e ha sicuramente un effetto piacevole all'interno degli ambienti, in quanto rilasciano essenze abbastanza gradevoli. Dunque, intanto usarle sicuramente in ambienti dove è possibile anche assicurare un sufficiente ricambio d'aria. Poi l'altra cosa è usarne in una quantità e con una frequenza adeguata. Quante ore, quante ore possiamo tenerle accese? Ma evitare di tenerle in ambienti dove si permane per più di 2 o 3 ore, quindi sicuramente non nelle camere da letto, si possono utilizzare tranquillamente nei soggiorni, nelle sale, ma dove non si permanga per più di un paio d'ore. Senta, le stesse regole valgono per gli incensi? Ho letto una ricerca o ci sono delle raccomandazioni in più da fare? Per gli incensi diciamo che la differenza sostanziale sta nella non presenza di una fiamma libera, quindi nella non creazione di concentrazioni significative di monossido di carbonio, perché non c'è la fiamma libera. Questo cosa vuol dire, professore? Vuol dire che l'incenso dà luogo a un rilascio di particelle ultrafini, quelle che noi vediamo visivamente come quel fumino bianco che esce, senza peraltro creare concentrazioni forti di sostanze che si liberano dalla fiamma. Senta, facciamo proprio un flash sugli spray, sono così comodi, soprattutto magari quando è rimasto qualche cattivo odore in cucina, molte persone spruzzano un po' di spray proprio per avere un'aria più profumata, un pronto intervento, insomma. Vantaggi e svantaggi dello spray? Ecco, lo spray hanno il grosso vantaggio di avere un immediato rilascio di sostanze ad origine, quindi di poter dare da subito l'effetto desiderato, sì, di copertura dell'odore sgradevole che noi vogliamo coprire. E ovviamente anche nel caso dello spray bisogna evitare di usarli, se non in casi eccezionali, nei posti dove non ci sia la possibilità di ricambiare l'aria, quindi i sgabuzzini, i bagni senza ventilazione. In questi posti invece vanno meglio quali deodoranti? Quelli... Possiamo mettere tranquillamente anche qui o un incenso, una candela o un diffusore elettrico, sempre con attenzione alla frequenza e alla durata di uso dello stesso. Professor Cavallo, grazie, buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro. E per oggi è tutto, un saluto e buon pomeriggio da Nicoletta Carbone. Essere e benessere.